composta così: il 4% di carne e muscoli, il 5% di ossa, l'11% di acqua, e perché il restante 80% è composta di sogni. Guarda come sono infelice adesso, mentre sorrido alle battute del giornalaio. Mi chiedo quale maledetto soffio di vento ha fatto cadere il vaso magico. Sono frustrato adesso, mentre innesco un gioco di sguardi con la barista. Mi chiedo chi mai ha sparso il velenoso seme e perché non riusciamo più a sognare insieme. Per dire che Marta un giorno è partita e non ci è dato di sapere se se l'è presa al fiume o un'altra vita. Nessuno potrà mai sapere se è per sua volontà o per disgrazia. Ed io che sono un uomo da niente, le porto adesso i fiori che non le ho mai donato. I fiori che non le ho mai donato.